Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapide informazioni, il nostro sito radio24.it, potete scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione e parlare anche con i giornalisti che hanno un blog. Il mio lo conoscete, Guardie o Ladri, lo trovate anche sul Sole 24 Ore. Seconda informazione, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di usura, l'abbiamo fatto tante volte in questi anni, continueremo a farlo. L'abbiamo fatto con Francesco Talevi, che ha avuto il coraggio anni fa di denunciare gli usurai, però la situazione non è stata poi così rosea come qualcuno si potrebbe aspettare. Cioè, io mi aspetto che se denuncio lo Stato mi sta accanto, mi aiuta, fa in modo che chi io ho denunciato sia assicurato alle patrie galere, se ritenuto condannato, se ritenuto ovviamente colpevole, assicurato alle patrie galere, e mi aspetto anche che la collettività mi porti, come dire, in un palmo di mano per quello che io ho fatto e ho rappresentato. Invece Talevi si trova in una condizione non proprio simile a quella che ho descritto, perché si è allontanato da Anzio, aspetta da ben 4 anni che lo Stato gli riconosca il diritto di accedere al fondo delle vittime di usura, cambia continuamente interlocutori, insomma la sua rete professionale è andata a farsi benedire, quindi è una situazione disastrosa. Abbiamo sentito la sua viva voce. Abbiamo sentito Lucia Brandi, che coordina una rete di sportelli antiusura della provincia di Roma, in sigla è AGISA. Abbiamo sentito che purtroppo la situazione è comune a tanti altri denuncianti, sempre pochissimi, la punta di un iceberg del fenomeno che denunciamo. Per fortuna, ieri Ottalevi ha fatto un nome, una volta tanto direi, di una rappresentante delle istituzioni che con le sue politiche sta vicino non soltanto ad Ottalevi, ma ovviamente anche agli altri che vengono colpiti da questa piaga. Ed è Serena Visintin, che è assessore alle politiche del personale, a tutela dei consumatori, ma anche della lotta all'usura della provincia di Roma. Buongiorno Visintin. Buongiorno a lei. Allora, una volta tanto, quindi, un nome di un politico che non assurge agli onori della cronaca per fatti nefasti, ma perché è accanto ai cittadini. Allora, che cosa fa la provincia di Roma, a fatti non a chiacchiere, per supportare questo cammino di denuncia di queste persone che invece di trovarsi poi, come dire, in una situazione tutto sommato agevole, invece trovano ostacoli a più non posso? Abbiamo fatto quello che potevamo fare, considerando che poi quando si tratta di usura sono le forze dell'ordine che intervengono e quindi ci sono, diciamo, i tribunali, le aule giudiziarie. Noi ci siamo costituiti parte civile e quindi appoggiando la provincia di Roma, quindi come ente, la causa che ha intentato il nostro talento. Oh, e questo è già fantastico. Anche il risarcimento di questo danno, quindi per sua vece chiediamo anche noi il risarcimento del danno che lui ha subito con questo, che è un abuso e che comunque è un crimine, un vero e proprio crimine. Questo l'abbiamo fatto forzando un pochino la mano rispetto poi anche alle attività proprie della provincia di Roma. L'abbiamo fatto non soltanto noi, ci sono diversi enti locali, soprattutto comuni in giro per l'Italia, che questa che è un'operazione più che altro di presenza, l'ente locale e a fianco a te si mette nella tua battaglia. Certo, assolutamente. Qui però vorrei chiedere anche questo, Visintin, cioè l'abbiamo sentito, ma adesso abbiamo parlato tante volte la difficoltà che si ha ad interloquire con le prefetture, con il Viminale, con chi rappresenta questo benedetto fondo antiusura. Ma la provincia di Roma, le province, gli enti locali, quale livello di intermediazione hanno con le prefetture? Perché secondo me essere, come dire, schierarsi in un'aula di tribunale come parte civile è cosa buona e giusta e fonte di salvezza, si direbbe all'interno di una chiesa durante la liturgia, però non basta. E allora qual è il vostro dialogo con la prefettura? Intanto è un dialogo proficuo e interistituzionale, questo non c'è ombra di dubbio. Noi stiamo lavorando a stretto contatto con la prefettura di Roma su tanti casi e su tante realtà che rappresentano la provincia di Roma, dove questo fenomeno è fortemente radicato e quindi va combattuto in grande sinergia. La verità però è che quando si parla di fondo antiusura, quando si parla di questo tipo di politiche, l'ente locale non può fare assolutamente nulla. Il fondo è gestito interamente dal commissario antiracket dal Ministero degli Interni, su questo noi non possiamo fare nulla. Noi come provincia di Roma siamo andati a discuterne alla Camera dei Deputati, perché in questi mesi è in discussione la riforma della legge legge 108, l'unica che, in cui si è prescritto il reato di usura, e abbiamo cercato di far valere la presenza chiedendo che ci sia un'apertura del fondo antiusura anche per gli enti locali. Giusto, e che quindi giusto, gli enti giusto. Locali diventino un punto, non solo un punto di ascolto, ma anche un punto di risposta. Giustissimo, però giustissimo. Ad oggi la legge non ci permette di aiutare Ottalevi se non con quello che abbiamo fatto. Certo, certo, comunque è già tanto quello che fate voi, è già tanto quello che facciamo nel nostro piccolo noi, denunciando i fenomeni e cercando di stare accanto alle persone che soffrono e che non dovrebbero soffrire, perché lo hanno già fatto in passato piegandosi ai voleri degli usurai. Da Roma a Torino, Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana di questa splendida città che è Torino. Buongiorno Dovis. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, qual è la situazione a Torino e che cosa fa la Caritas diocesana per essere accanto alle vittime di usura? E a Torino la situazione ha dei connotati un po' differenti, perché il tipo di usura che è presente nella nostra città riguarda anche le persone singole e le famiglie. Ce ne siamo accorti dal 1993, quando al nostro centro di ascolto era arrivata una persona, in quel caso era un esercente di un negozio, che aveva avuto dei tassi di interesse del 220% rispetto a quello che aveva richiesto in prestito e che aveva visto poi il suo negozio andato in fumo. Di lì abbiamo incominciato una riflessione su questo problema che ci ha portati nel 94, appunto alla fine del 94, a fondare una fondazione chiamata San Matteo Insieme contro l'usura, alla quale si è poi aggiunta alcuni anni dopo una realtà analoga partita dalla fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, è quella che adesso è uno degli azionisti di privilegio, certo, dell'Unicredit Banca. Ecco, Dovis, le volevo chiedere questo, siccome questa è anche una trasmissione di servizio, se gli radioascoltatori, mi auguro che nessuno sia nelle condizioni di dover ricorrere a voi, ma se i nostri radioascoltatori presenti a Torino vittime di usura, siano essi famiglie o imprenditori, volessero rivolgersi a voi, come possono fare? La cosa importante è che prendano contatti con il parroco della parrocchia che è nel loro territorio o, se lì c'è, un centro di ascolto. Bene. I parroci operatori sono in grado di veicolarli con diciamo così un minimo di previsione a una o l'altra delle due fondazioni a seconda della necessità, dell'urgenza, dell'impegno che questa cosa richiede. Bene, altrimenti possono sentire sempre noi, il nostro numero di telefono è 011 51 56 350, nei giorni lavorativi al mattino, e li sapremo indirizzare a chi di dovere. Benissimo, mi auguro che non riceviate telefonate, perché questo vorrebbe significare che poche sono le persone che ne hanno bisogno. Ahimè, purtroppo l'usura è una piaga che colpisce centinaia di migliaia di imprenditori e famiglie, e ha fatto bene Dovis a sottolineare anche questo punto. Cioè, abbiamo parlato di Ottalevi come imprenditore, abbiamo parlato con Lucia Brandi di chi si trova in quella situazione. Visintin, però effettivamente l'usura non è che colpisce soltanto chi fa impresa, ma colpisce anche, ahimè purtroppo, in periodo di crisi anche chi si trova improvvisamente senza lavoro, in qualche modo deve andare avanti. In provincia di Roma lo avvertite questo fenomeno? Guardi, noi abbiamo ormai da diversi anni un numero verde per chi vuole denunciare il reato di usura, e abbiamo presentato un mese fa i dati di questo numero verde, e i dati ci attestano che in realtà abbiamo superato, cioè le famiglie, i single, i ragazzi e gli studenti che quindi si devono pagare solamente l'affitto, hanno superato il numero di imprese che si rivolgono a noi, quindi siamo al 55%, cioè il 55% di quelli che si rivolgono al nostro numero verde sono in questa casistica. Certo. Le piccole e medie imprese sono una realtà sempre colpita, ma si affaccia una nuova povertà, e su questa nuova povertà il crimine organizzato sta facendo un business. Assolutamente. Visintin, il numero verde, sì, può darlo per piacere? Guardi, basta andare sul sito internet della provincia, www.provincia.roma.it, e si trova sul nostro benissimo sito. Benissimo. Un numero ovviamente assolutamente gratuito, certo, a cui chiunque si può rivolgere, con il rispetto totale della privacy, che purtroppo molto non si traduce in una denuncia, questo lo devo dire. Questo qui l'abbiamo, un sostegno importante che un ente, che il nostro ente dà a chiunque. Assolutamente. Abbia Volere risposta sul termine del sovraindebitamento, guardate che c'è un tema che oggi noi dovremmo trattare, che è il sovraindebitamento. Abbiamo sulla nostra provincia di Roma un sovraindebitamento, ogni famiglia, ogni persona è indebitata di 14.000 euro. Bene. Quindi questo è un luogo dove prolifica questo tipo di assolutamente fenomeno. Sì, purtroppo in periodo di crisi l'usura è una piaga che cresce anziché essere debellata. Io ringrazio tutti i nostri ospiti di queste due giornate e invito anche alla lettura del mio libro che trovate in edicola col Sole 24 Ore, Economia Criminale, perché troverete molte parti dedicate proprio alle mani della criminalità organizzata su questo fenomeno del soldo a strozzo, si diceva una volta a Roma. Grazie ai nostri ospiti, in regia Peter Bescapè e in studio a Laura Faggin. Roberto Galullo vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento a domani.